tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Scontro internazionale sull'ipotesi che Trump voglia riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Il va schiarita tra governo e sindaco di Taranto. Convocato il tavolo, il primo cittadino potrebbe ritirare il ricorso. Vio testamento, chiesta la calendarizzazione immediata all'indomani della nuova udienza del processo a Cappato. Condannata l'ex sottosegretaria Barracciu nel processo sui fondi della regione Sardegna. Età effettiva di pensionamento molto più bassa di quella ufficiale, dice l'OCSE, in Italia, a meno di 63 anni. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo anche in diretta video e se volete potete commentare anche là sulla nostra pagina Facebook o su quella di Radio 24. In apertura dunque andiamo all'estero, l'ipotesi che l'amministrazione Trump sposti a Gerusalemme l'ambasciata come capitale di Israele sta generando un'ondata di polemiche e rischia di avere ripercussioni internazionali pesanti. Hamas ha avvertito, si rischia una nuova intifada, mentre reazioni dure vengono espresse anche dall'Arabia Saudita, che definisce l'ipotesi irritante, dalla Turchia, che parla di una linea rossa da non valicare. Sul fronte europeo il presidente francese Macron esprime preoccupazione. Il commento di Ugo Tramballi. Dalle decisioni che prende un giorno sì e uno no, non sembra che Donald Trump tema di lasciare gli Stati Uniti da soli. Anzi, è sempre più evidente che l'isolazionismo sia la sua bussola ideologica. Decidendo di spostare l'ambasciata americana a Gerusalemme e quindi di negare l'occupazione israeliana della parte orientale araba della città, il presidente sta per perdere alleati essenziali nella regione. I governi iracheno e afghano, accanto ai quali combattono le truppe americane, non possono ignorare il destino del terzo luogo più santo per l'Israele. Né può farlo la Giordania e ancora meno l'Arabia Saudita, al cui principe ereditario Mohammed bin Salman Trump aveva affidato le chiavi del Medio Oriente. Mi fido di lui qualsiasi cosa decida di fare, aveva detto. È vero che all'Arabia Saudita interessa più lo scontro strategico con l'Iran che il destino del popolo palestinese sempre silenziosamente detestato. Ma Gerusalemme è un'altra cosa, è molto più dello Stato palestinese, è Islam. E quando la religione diventa la protagonista di una vicenda politica, soprattutto in Medio Oriente, è un annuncio di tragedia. La questione dell'Ilva di Taranto, la convocazione di un tavolo negoziale dedicato all'Ilva con all'ordine del giorno, quello che è richiesto dal sindaco della città pugliese, è stata fatta dal ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda dopo l'incontro di questa mattina, appunto, tra lo stesso Melucci e Calenda. Il sindaco ha confermato che il ricevimento della convocazione formale sarà disponibile al ritiro del ricorso al TAR. Torneremo a parlarne tra poco, lo faremo proprio col sindaco di Taranto. Parliamo adesso invece del blitz antimafia a Palermo. Si era già fatta 8 anni di carcere, ma una volta uscita Mariangela di Trapani, la moglie del boss Salvino Madonia, il killer dell'imprenditore Libero Grassi, avrebbe ricevuto un'investitura ben precisa a riorganizzare Cosa Nostra. E quanto emerge dall'operazione Talea, eseguita dai carabinieri nei mandamenti mafiosi di San Lorenzo e Resuttana, il provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Palermo è stato notificato a 25 persone, ritenute a vario titolo responsabili di associazione mafiosa, estorsione consumata e tentata. Dalle indagini della Procura distrettuale antimafia diretta da Francesco Lovoi emerge che nel centro di Palermo si continua a pagare il pizzo nonostante le denunce e le manifestazioni degli anni scorsi. Pagano i negozianti, i titolari di noti ristoranti, pagano gli imprenditori impegnati nelle ristrutturazioni di edifici e chi prova a ribellarsi viene intimidito con l'attack nelle saracinesche o addirittura con attentati incendiari. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. L'analisi di Daniele Biacchessi. Aveva un compito preciso, Mariangela di Trapani, moglie del boss Salvino Madonia. Doveva riorganizzare Cosa Nostra dopo la morte di Totorina e Bernardo Provenzano. Per realizzare questa missione, Mariangela di Trapani sarebbe partita dagli ingenti proventi derivati dal pizzo imposto ai commercianti a Palermo. Un affare d'oro di cui il marito Madonia era il super esperto, tanto che con il piombo spense per sempre la voce coraggiosa dell'imprenditore Libero Grassi dichiararsi che si era rifiutato di pagare l'obolo alle mafie. Ma Mariangela di Trapani è solo l'ultima tra le donne che hanno raggiunto il vertice criminale. Erano donne di mafia Maria Grazia Genova, detta Maragé, la anziana Angela Russo, corriera di droga tra Palermo, le Puglie e Nord Italia, Maria Filippa Messina, giovane moglie di Nino Cinturino, boss di Calatabiano, Vincenza Barbagallo, Domenica Biancato, Sebastiana Trovato. Ci sono dunque le fedeli compagne dei boss, come Rosaria Castellana, moglie di Michele Greco, detto il Papa, come Filippa Inzerillo, vedova di Salvatore. E poi ci sono madrine o supplenti, come Rosa Bontate, sorella di Giovanni e Stefano e moglie di Giacomo Vitale, coinvolto nel falso sequestro di Michele Sindona. Epifania, Letizia Lopresti, Francesca Battaglia, rispettivamente sorella e moglie di Francesco Lopresti, Anna Maria Di Bartolo, moglie di Domenico Federico, e Anna Vitale, cognata di Gerlando Alberti. Sono storie mafiose dunque che indicano come le donne hanno avuto un ruolo fondamentale nell'organizzazione. La vicenda Etruria è ancora al centro della scena politica mentre proseguono le audizioni in commissione parlamentare. Le quattro banche messe in risoluzione a novembre 2015, Etruria, Marche, Carichieti, Cari Ferrara, versavano in una situazione chiarissima di dissesto, ampiamente conclamato. Così Roberto Nicastro, ex presidente delle quattro Good Bank, in commissione d'inchiesta sulle banche. Il manager si riferisce alle sofferenze e ai crediti fuori territorio. Sul portafoglio di crediti trasferiti dalle quattro banche alla Reva, la Bad Bank, qualcosa come il 30% del portafoglio fosse relativo a prenditori al di fuori delle province chiave. Dopo Nicastro, domani e dopo saranno sentite le associazioni dei risparmiatori e stasera la commissione deciderà se audire l'ex di Unicredit Ghizzoni, chiamato in causa su Etruria. Poi toccherà i numeri 1 di Consob e Banca Italia, Vegas e Visco. Tutto ciò dopo il polverone scatenato dall'audizione del PM di Arezzo Rossi, accusato di aver omesso informazioni sull'ex consigliere di Etruria Boschi, escluso dal processo per bancarotta, come ha precisato il magistrato, ma indagato per falso in prospetto. Non ho nascosto nulla, si è difeso Rossi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Condannata l'ex sottosegretaria Barracciu. 4 anni di carcere e l'interdizione dai pubblici uffici per lo stesso periodo. È questa la condanna inflitta dal Tribunale di Cagliari a Francesca Barracciu, l'ex sottosegretaria alla cultura del governo Renzi, esponente del Partito Democratico, è stata riconosciuta colpevole di peculato aggravato in uno dei processi nati dall'inchiesta sui fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna spesi per fini non istituzionali, oltre 80.000 euro nel suo caso che, stando alle indagini, avrebbe utilizzato a fini personali. Fedelissima di Renzi, nel 2013 la Barracciu aveva vinto le primarie del centro-sinistra per le regionali in Sardegna, ma a poche ore di distanza, raggiunta da un avviso di garanzia, era stata costretta a rinunciare alla candidatura. Quella di oggi non è una sentenza politica, ma i dubbi restano, è stato il suo primo commento dopo la condanna. Non penso a un complotto, ma alla mia esposizione. Io voglio ricordare a tutti voi che mi sono addormentata il 30 settembre del 2013 alle 2 del mattino, candidata alla presidenza della regione, e alle 8 del mattino del 1 ottobre 2013 avevo l'avviso di garanzia in casa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ancora la politica, all'indomani della nuova udienza nel processo a Marco Cappato per il suicidio assistito di DJ Fabo, si torna a parlare della legge sul biotestamento, della quale è stata chiesta una calendarizzazione immediata. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Tra poco la riunione dei capigruppo di Palazzo Madama per decidere se calendarizzare il biotestamento dopo che Luigi Zanda del PD chiede che venga messo subito in aula. Stamattina il presidente del Senato Pietro Grasso ha incontrato una delegazione dell'associazione Luca Coscioni che ha consegnato le firme raccolte per l'approvazione della legge. Emma Bonino dei Radicali poi avverte: il biotestamento non esclude lo ius soli, non c'è competizione tra i diritti. Approvato dalla Camera il 20 aprile scorso, il testo del fine vita è fermo in commissione al Senato, prevede il consenso informato, ovvero nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo dell'approvazione libera e informata della persona interessata, e per quanto riguarda i minori il consenso espresso dai genitori. genitori o dal tutore. Previste poi le disposizioni anticipate di trattamento. Ogni persona maggiorenne capace di intendere o di volere può, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche, comprese nutrizione e idratazione artificiali. Le DAT sono sempre revocabili, ma vincolanti per il medico. Paziente e medico, infine, possono realizzare una pianificazione delle cure in caso di una patologia cronica o invalidante. A te, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Per chiudere la pagina politica, è durato lo spazio di un mattino l'idea che Movimento 5 Stelle Liberi e Uguali, la nuova formazione con leader il Presidente del Senato Pietro Grasso, potessero accordarsi per un'alleanza. È arrivata in mattinata la dichiarazione di Roberto Speranza, proprio di Liberi Uguali, che dice che tra loro e il Movimento 5 Stelle ci sono distanze enormi, hanno un'idea diversa da noi su molti punti, sull'articolo 18, sullo Ius Soli, tema sul quale, ha detto Speranza, Di Maio la pensa come Salvini. E poi le parole di Di Maio, proprio di poco fa: ogni giorno un giornalista si sveglia e sa che deve tirare per la giacchetta il Movimento 5 Stelle, noi, ha ribadito, non facciamo alleanze con nessuno. Parliamo di pensione, del sistema pensionistico adesso, perché l'OCSE ha presentato il suo panorama pensioni 2017. Sentiamo. Uno scarto da tenere d'occhio, secondo l'OCSE, quello tra l'Italia e gli altri paesi membri dell'organizzazione parigina proprio sul fronte delle pensioni, con un primato a sorpresa. Nei fatti andiamo in pensione in media prima dell'età pensionabile fissata per legge. Dati alla mano, avverte l'OCSE, l'Italia è sì il paese con l'età pensionabile più alta d'Europa, ma è anche quello in cui le regole permettono di andare in pensione prima rispetto ai requisiti anagrafici. In media l'età di uscita effettiva è di 4,4 anni prima per gli uomini e 4 anni prima per le donne rispetto a quella di vecchiaia legale, 66,7 anni ad oggi, ma salirà a 67 a partire dal 2019. Si esce quindi abbondantemente prima dei 63 anni. In media, infatti, nell'area OCSE il divario tra età legale ed effettiva di uscita per il pensionamento è di 0,8 anni per gli uomini e 0,2 anni per le donne. In questo contesto, però, in futuro, chi ha iniziato a lavorare nel 2016 a 20 anni sa che andrà in pensione a 71 anni compiuti. Per questo l'OCSE invita non solo l'Italia a proseguire le riforme senza attendere la prossima crisi, per evitare diseguaglianze e per tenere conto dell'evoluzione delle forme di lavoro. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla pagina sportiva, che iniziamo, come sempre facciamo in questi giorni in realtà, con le cronache che ci arrivano dal Messico, dove sono in corso i mondiali di nuoto paralimpico e dove i nostri ragazzi stanno mietendo su un successo dietro l'altro. Vi avevamo raccontato ieri delle 12 medaglie, ci sono stati altri 5 ori e un record del mondo, anzi due record del mondo, uno che è arrivato da una nuotatrice nei Farfalla, e poi anche il nostro collega Riccardo Barlam, Simone Barlam, che appunto ha ottenuto anche lui appunto un record. Adesso andiamo però a parlare di calcio con la Champions League che si gioca stasera. Vincere per star tranquilli è l'obiettivo comune di Roma e Juventus per l'approdo agli ottavi. All'Olimpico i giallorossi ospitano gli azzeri del Karabakh, che hanno sporcato il cammino dell'Atletico Madrid. Coi biancorossi impegnati a Londra contro il Chelsea, già qualificato e staccati di 2 punti, potrebbe bastare anche il pari, ma Di Francesco non vuole distrazioni e De Rossi chiarisce quanto pesi la qualificazione per il club. Secondo me è un passaggio fondamentale proprio per la nostra dimensione europea. Di passare un girone del genere non mi ricordo che ci è capitato, e sarebbe veramente una bella immagine da esportare in Europa. Compito in parte anche più agevole per la Juventus ad Atene contro l'Olympiacos. Ai bianconeri basta che lo Sporting Lisbona non vinca al Camp Nou contro il Barcellona. In quel caso i campioni d'Italia dovrebbero battere gli ellenici. Ma più che ai calcoli, Allegri guarda prestazione e infortuni. Non ci sarà Chiellini, causa gastroenterite, ma torna Mandzukic. Voci a bilancio fondamentali, anche in vista della sfida all'Inter capolista sabato sera a Torino. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a vedere che cosa sentire, che cosa succede sulle strade. Ci ritroviamo subito dopo e iniziamo il nostro giro d'Italia. Lo inizieremo da Taranto, dalla vicenda Ilva. Torneremo a Ventimiglia, dove ci sono ancora decine di persone, decine di migranti che si ammassano e di fatto vivono sul torrente Roia nella speranza di attraversare il confine, quando dalla Francia ci sono stati 45.000 respingimenti nel corso d'anno. Parleremo di giustizia italiana, perché notizia che campeggia un po' sulle pagine dei quotidiani online in queste ore, la vicenda di una serie di rapine messe a segno da alcuni malviventi che dicevano tra loro: veniamo in Italia, stiamo in Italia perché in Italia tanto di carcere si rischia poco, e le condanne effettivamente sembrano dimostrarlo. E parleremo anche di una piccola storia, la piccola storia di una multa particolare arrivata ad un cittadino per aver insultato i vigili su Facebook. A tra poco. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, e dall'altra parte del vetro sempre Filippo Aureggi. In regia Laura Faggini, in assistenza in redazione. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dello scontro internazionale sull'ipotesi che Trump voglia riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Dico a Giacinto, che ci scrive sulla pagina Facebook, che Tramballi nel suo commento non ha detto Gerusalemme è Islam, ha detto, parlando delle posizioni per esempio dell'Arabia Saudita o della Turchia, come i paesi islamici, in particolare paesi come l'Arabia Saudita o la Turchia, considerano Gerusalemme, e quindi quanto questa decisione di Trump, ammesso che arrivi, sia gravida di conseguenze. Abbiamo accennato alla schierita tra governo e sindaco di Taranto sull'Ilva, e abbiamo già in linea il sindaco di Taranto, col quale parleremo tra un attimo, del biotestamento, del fatto che è stata chiesta la calendarizzazione della condanna all'ex sottosegretario Barra, e poi abbiamo parlato anche di calcio con la Champions League. Adesso iniziamo il nostro giro d'Italia, ma prima ancora di andare a Taranto, appunto al sindaco Rinaldo Melucci, che è già in ascolto, fateci andare per un attimo a Brescia per una storia che dobbiamo raccontare, e che raccontiamo senza un ospite, ma giusto per darvi un'idea di quello che è successo e che troverete anche appunto sulle prime pagine dei quotidiani oggi. La vicenda la peschiamo in realtà dal Giorno, nel racconto che c'è sul Giorno e che è oggi in edicola, ed è la vicenda di una banda di rapinatori di bancomat che girava per il nord Italia, in particolare nel Bresciano, e appunto effettuava dei furti nei bancomat. E ci sono intercettazioni tra queste persone, intercettazioni nelle quali dicono frasi come: l'Italia è il paese giusto per fare i nostri colpi, le forze dell'ordine, magari non lo dicevano proprio così, durante gli inseguimenti non sparano, e poi se ci arrestano non restiamo molto in galera. Ci sono state le sentenze ed effettivamente le cose sembrano confermare questa ipotesi. Per esempio, il capo della banda, un uomo dell'82 di origine romena, era stato già condannato a 3 anni e mezzo di carcere per una rapina nel 2010 ai danni di una coppia di anziani di Treviso sorpresi e immobilizzati nella loro casa, quindi aveva già una condanna, era recidivo. Ebbene, ha patteggiato 4 anni di carcere nonostante gli assalti ai bancomat siano stati molti. Gli altri hanno patteggiato anche loro, in parallelo a questo processo c'è stato il processo ad un uomo, Giuseppe Chiarini, che dalla finestra di casa sua, che affacciava praticamente sulla banca, ha sparato e ha colpito alla gamba uno di questi ladri. Chiariamo bene, se spari a uno che non entra in casa tua e che non ti minaccia, quello è un tentato omicidio, non c'è niente da fare. Fatto sta che comunque gli anni di carcere che ha preso quest'uomo sono più del rapinatore che lui ha ferito. È una storia per certi versi esemplare di come funzionano alcuni pezzi di giustizia nel nostro paese. E ripeto, là si tratta di tentato omicidio, ma la cosa che ci colpisce di più è la condanna che ha ricevuto, appena 4 anni, il capo di questa banda, che era evidentemente un recidivo. Questo giusto per farvi innervosire un po'. Andiamo a Taranto da Rinaldo Melucci, dove invece raccontiamo di una bella schiarita sulla vicenda dell'Ilva, da quel che abbiamo capito. Melucci, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Spezia, buongiorno agli ascoltatori. Allora, Calenda è venuto a Taranto, l'ha incontrata e si apre un tavolo dunque. Beh, è quello che chiedevamo, non tanto per il valore politico, insomma, del protagonismo che rivendicavamo per gli enti locali, ma perché era giusto finalmente dare voce alla nostra comunità e mettere su un tavolo, insomma, in un contenitore formale il fatto dirimente per il proseguo della trattativa, che è l'ambiente e la qualità della vita dei cittadini, che ci era sembrato negli ultimi mesi, negli ultimi passaggi della procedura, passare un po' in secondo ordine. Lei si è detto disposto a ritirare il ricorso al TAR, a ritirare la sua firma dal ricorso al TAR, perché io credo che la Regione Puglia lo manterrà questo ricorso. Ma io no, non sarei così convinto, perché oggi se arriva a questo tavolo e anche soprattutto per la pressione decisiva del presidente Emiliano, che è uomo di buon senso e che anche lui ha come obiettivo soltanto la salute dei cittadini tarantini e pugliesi. È chiaro che, ed è già avvenuto stamattina in alcuni passaggi informali telefonici, come dire, un raccordo col presidente Emiliano, io credo che il presidente voglia, come giusto e morale in uno Stato civile, che non ci siano precondizioni alla convocazione del tavolo, ma una volta che il tavolo è convocato e si insedia con i crismi che noi chiediamo e che il ministro Calenda dimostra di voler accogliere quasi del tutto, viene meno, insomma, l'ipotesi principale del percorso giudiziale. Quindi io non vedo perché da qui a poche settimane anche la posizione della Regione non possa però, cambiare. Sì. Melucci, scusi la brutalità, ma allora che cosa è stato tutto questo casino? Non vi siete capiti con Calenda? Che cosa è successo? Ma non glielo so dire, è una trattativa molto complessa. No, questo sicuramente, però non riesco a capire come nell'arco di una settimana si possano sciogliere questi nodi in questo modo, con una chiacchierata, per così dire, col ministro. Abbia pazienza. Beh, intanto non è una chiacchierata, è un'intera mattinata a discutere nel merito alcune questioni tecniche. Mi pare di comprendere che c'è stato anche un intervento diretto del presidente Gentiloni, sono tornati tutti un po' nel loro ruolo istituzionale e si è compreso, voglio dire, che le rivendicazioni degli enti locali erano sacrosante. Lei ricorderà che lo stallo avveniva sulla mancata convocazione di un tavolo specifico per Taranto, sì, con priorità rispetto all'ambiente, un po' come il nostro arcivescovo ha denunciato anche nelle ultime ore. Se un ministro viene a Taranto, dimostra di rispettare la comunità, di recuperare autorevolezza per gli enti locali e costituisce quel tavolo come chiediamo, da istituzione, da amministratori, non possiamo certo continuare come dire sulla strada del pregiudizio, sì, o della contrapposizione. O del muro contro muro, dice lei. Ascolti Melucci, da quel che ha sentito da Emiliano, le sembra quindi che lo stesso Emiliano sia disposto a ritirare il ricorso a questo punto? Sì, è chiaro che questo avverrà in modi e tempi specifici, se avverrà, nel senso che in troppi anni abbiamo vissuto annunci, come dire, pacche sulle spalle, adesso non è più sufficiente. Io ho il sentore, prima di tutto umano che politico, che il ministro Calenda terrà fede, insomma, a quanto oggetto del colloquio odierno. È chiaro che se questo non dovesse realizzarsi in tempi ragionevoli, o addirittura se gli esiti di quel tavolo dovessero essere di tutt'altro segno, come dire, c'è sempre il modo di intervenire sulla vicenda o di far saltare quel tavolo, ma non partiamo certo con questa idea in testa. La ringrazio molto, grazie Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, per essere stato con noi, per averci dato un quadro di quello che succede in città. Alessandro Becchini, responsabile programmi di Oxfam in Italia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Il nostro giro d'Italia ci porta a Ventimiglia, luogo nel quale torniamo spesso. I dati degli ultimi giorni, anzi arrivati ieri, raccontano di 45.000 respingimenti dalla Francia di migranti che tentano di passare il confine in vari modi. E il tema che avete sottolineato nelle scorse ore, Becchini, è quello della situazione proprio a Ventimiglia e proprio sul greto del torrente Roia, sul quale siamo tornati spesso e abbiamo raccontato spessissimo, perché periodicamente viene sgomberato, ripulito, i migranti tornano là perché è il luogo nel quale si accampano sotto ad un cavalcavia, in una situazione francamente terrificante per chiunque, e attendono in quel modo di passare il confine. Avete detto voi, molti minori ci sono anche. Sì, ci sono molti minori, uno su tre tendenzialmente minori che avrebbero il diritto, anche sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2014, di passare, di andare in Francia a fare richiesta di asilo, in Francia come in qualunque altro paese dell'Unione, e che invece non possono farlo, gli viene impedito appunto attraverso un meccanismo di respingimento da parte della polizia francese. Questo ovviamente li espone ulteriormente a quella situazione, come dire, tragica, che sottolineava anche lei, di presenza sì. lungo il greto del fiume Roya. Potete immaginare, diciamo, in questi giorni, con il freddo che fa, qual è la situazione e qual è, diciamo, lo stato dei migranti, dei ragazzi, eccetera. Da questo punto di vista, ovviamente, come dire, emerge ulteriormente la responsabilità degli stati membri dell'Unione Europea, che continuano ad avere questa chiusura e questo atteggiamento anche verso le persone più fragili come minori. Sì, Becchini, voi che operate là, immagino che lo diciate ai migranti, cioè, magari appunto tramite un mediatore, un traduttore, cioè andate là e glielo dite, guardate che in Francia non riuscite ad arrivarci, non c'è storia. Sì. Sì, il problema è che appunto c'è una differenza fondamentale, che è quella, diciamo, tra il migrante adulto e il migrante minore, che ovviamente attraversa l'Italia cercando di andare a ricongiungersi con parenti in vari altri paesi dell'Unione Europea. Questo dovrebbe essergli consentito. Questo ovviamente non avviene. Noi con i nostri team mobili facciamo anche informativa legale e rendiamo anche edotti i migranti di questa situazione. Dopodiché lei capisce che sì. Come dire, per una persona che ha attraversato il deserto, che ha fatto la Libia, che è arrivato in Italia, sì. Beh, insomma, tutto pensa di fare tranne che fermarsi a un miglio dalla meta. Sì, certo, ovviamente. Dice, ho fatto il deserto, ho attraversato il Mediterraneo, probabilmente su un'imbarcazione di fortuna. Esatto. Io comunque ci provo a passare il confine e continuerò a provarci. Un'ultima domanda che le voglio fare, Becchini, per quanto può dircelo naturalmente. Nei mesi scorsi, quando ci siamo occupati della vicenda del torrente Roya, spesso ci è capitato di cogliere l'idea che ci fossero delle organizzazioni, ovviamente non quelle strutturate come le vostre, parlo per esempio di attivisti o cose di questo genere, che provano ad aiutare i migranti a passare il confine transitando dalle vecchie strade del contrabbando, tanto per darci un'idea. Avete avuto la percezione che ci sia un fenomeno di questo genere oppure no? Ma, abbiamo avuto la percezione, diciamo, che i migranti sono persone che sono, come dire, facilmente anche come dire, catturabili da persone che gli fanno intravedere una possibilità e che poi, come dire, li abbandonano a metà di queste strade. Ecco. Quindi assolutamente ci sono poi i percorsi del contrabbando, non valgono soltanto per le merci, valgono anche per le persone, purtroppo. Quindi assolutamente questi sono episodi che accadono, di cui come dire, abbiamo già fatto menzione più volte. Il problema è che, come dire, come sempre accade, laddove si chiudono rotte legali, le persone cercano qualunque tipo di altra rotta, anche quelle illegali. Ovviamente. La ringrazio. Grazie Alessandro Becchini, responsabile dei programmi Italia di Oxfam, per essere stato con noi. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo. Partiremo parlando di una vicenda di due cooperative che hanno lasciato a casa 127 lavoratori nel modenese, e è un caso particolare perché per la prima volta la regione Emilia-Romagna si rivolge direttamente alla magistratura e porta documentazione. E poi, come vi dicevo, piccola storia di una condanna per degli insulti ai vigili urbani. Quanti ne avrete lanciati anche voi, quanti ne avrete scritti sui social? Ebbene, c'è una persona che è stata condannata ad un reato, ad una pena particolare. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: lo scontro internazionale sull'ipotesi che Trump voglia riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, reagiscono i sauditi, reagisce anche la Turchia, preoccupazione dalla Francia. Sull'Ilva schiarita tra governo e sindaco di Taranto, convocato il tavolo, il primo cittadino potrebbe ritirare il ricorso. Biotestamento, chiesta la calendarizzazione immediata, l'indomani della nuova udienza del processo accappato. Condannata l'ex sottosegretaria Barracciu nel processo sui fondi della regione Sardegna. Età effettiva di pensione molto più bassa di quella ufficiale, dice l'OCSE, in Italia a meno di 63 anni. E prima dei mercati una risposta agli ascoltatori: sì, avete ragione, non si chiamano più vigili urbani, si chiama polizia locale. Polizia locale. Parleremo col comandante della polizia locale della provincia di Torino. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Il nostro Giro d'Italia adesso ci porta a Modena per parlare di una vicenda che riguarda un'azienda, la Castelfrigo. Ci porta il nostro Giro d'Italia a Castelnuovo Rangone, appunto in provincia di Modena. È una vicenda che va avanti da qualche tempo e che ha portato i lavoratori di due cooperative a protestare anche davanti alla fabbrica contadina voluta da Oscar Farinetti. Ed è la vicenda del licenziamento di 127 lavoratori di due cooperative che lavoravano per questa azienda, appunto per la Castelfrigo. Di licenziamenti, come sapete, ce ne sono tanti in Italia, non è solamente questo, ma si mette in luce ed emerge da questa vicenda un fatto che è rimasto spesso sotto traccia in questi anni e che adesso inizia ad emergere anche per volontà della Regione Emilia-Romagna, che, caso forse unico, si rivolge direttamente alla magistratura. E si rivolge alla magistratura perché qua c'è un tema di giro di cooperative, per così dire, no? Di vicende ne avrete sentite di simili, cooperative che nascono, vengono chiuse, i lavoratori licenziati e poi vengono riassunti da una nuova cooperativa, spesso lavoratori stranieri, tanto che questi lavoratori, in prevalenza provenienti dal Ghana, dall'Albania e dalla Cina, hanno anche scritto ai loro ambasciatori per chiedere un po' di giustizia. Siamo in linea con Palma Costi, che è l'assessore alle attività produttive della Regione Emilia-Romagna. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Allora, è una mossa particolare, insomma, nella regione che sul mondo cooperativo ha fatto un pezzo della sua fortuna, un'istituzione che si rivolge direttamente alla magistratura, è un caso particolare, Costi. Ma guardi, siamo in presenza di qualcosa che forse non è cooperazione. Questo è uno dei primi temi che mi piace sottolineare. Siamo di fronte a aziende che vengono chiamate cooperative, ma che da quello che abbiamo potuto constatare non rispettano nulla di ciò che la Costituzione e le norme prevede per le cooperative. Questo è proprio il motivo per cui riteniamo che siano soggetti che hanno anche elementi di illegalità, e quindi la nostra azione è proprio a tutela dei lavoratori, ma a tutela anche di tutto quel mondo economico che lavora nella perfetta legalità, come noi chiediamo. Noi siamo una regione che abbiamo fatto del lavoro e della legalità i nostri punti di eccellenza, e quindi non possiamo tollerare situazioni di questo genere. Sì, voi avete audito anche i due presidenti delle cooperative, che evidentemente avete ritenuto non siano stati in grado di dare i necessari chiarimenti su quello che è successo. Però quello che ci interessa, Costi, è anche cercare di capire quanto possa essere effettivamente diffuso questo fenomeno, perché insomma, lo ripeto, di storie come queste ne abbiamo viste, di vicende che sono entrate anche in atti giudiziari simili a queste ne abbiamo viste. Insomma, l'abuso della cooperazione, l'abuso del sistema cooperativo per operazioni di questo genere è forse più diffuso di quanto non sembri. Ma adesso sì, è chiaro che ci si concentra rispetto a quest'ultima azione, che è molto forte, quella di rivolgersi chiaramente alla magistratura. Nel momento in cui io mi sono trovata ad un tavolo istituzionale regolarmente convocato per la crisi, perché c'è stato il licenziamento di 127 lavoratori, e ho riscontrato una situazione abbastanza, diciamo, difficile, insomma, mettiamola così, comunque con degli aspetti che per noi sono proprio di illegalità. Però questa non è l'unica azione che noi stiamo facendo. Io voglio ricordare che noi immediatamente ci siamo rivolti chiaramente anche al governo, quindi sia al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia. La interrompo, Costi, mi scusi, mi perdoni se la interrompo. Immaginiamo che abbiate fatto delle azioni in questa direzione. In realtà la mia domanda era un po' più precisa e riguardava quanto ritenete che possa essere diffusa una situazione di questo genere. Le stavo proprio rispondendo in questo senso, nel senso che noi abbiamo chiesto a chi ha competenza di valutare questi aspetti, chiaramente di valutarli non solo per i due soggetti che noi abbiamo ritenuto, voglio dire, che hanno già degli elementi di illegalità, ma nello stesso tempo noi stiamo lavorando per anche con un'altra modalità, che è quello della consulta per la legalità, proprio perché abbiamo negli appalti irregolari di manodopera, quindi parliamo di questo tema, abbiamo un punto di attenzione molto forte, perché per noi nel nostro territorio bisogna riportare le situazioni nella perfetta legalità. Io la ringrazio, grazie a Palma Cossi, assessore alle attività produttive della Regione Emilia Romagna, per essere stata con noi. Vedremo che cosa succederà, vicenda che continueremo a seguire, o almeno vicende che continueremo a seguire. Grazie Cossi, buon lavoro, buona giornata. Grazie mille. E adesso a chiudere una storia un po' più leggera, per la quale ci colleghiamo con Bruno Pavia, che è comandante della Polizia Locale di Candiolo, provincia di Torino. Buongiorno Pavia, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Lei si offende tra l'altro se la chiamo capo dei vigili urbani, giusto per sapere, no, perché abbiamo avuto un po' di polemiche con gli ascoltatori. Si offende? No, quello sono, ormai insomma, i vigili urbani sono scomparsi, sono... Si chiama polizia locale, polizia municipale, sì, eccetera, eccetera. Allora, che cosa è successo? È successo che un cittadino della vostra città su Facebook vi ha definiti rigurgiti di cane, testuali, spero di non offendere, ripetendo no, quello che ha scritto. E la cosa bella è questa, che è stato condannato non solo ad una multa, ma in realtà a scrivere su Facebook che si scusava. Sì, esattamente così. Diciamo che noi siamo una realtà di circa 6.000 abitanti nella cintura di Torino. Questo comune, su una decisione spontanea di un gruppo di cittadini, hanno formato un gruppo su Facebook, e dove insomma è anche carino confrontarsi per determinate insomma situazioni che vengono a crearsi in paese. Però questa volta insomma sono andati un po' oltre i limiti. Sì. Uno di questi signori insomma su un post che trattava di furti in appartamento, che sono purtroppo venuti, è stato un periodo, insomma si è scatenata dicendo che praticamente gli agenti di polizia locale facevano soltanto posti di blocco, che quelli non mancavano mai, che è vergognoso, e poi insomma da un post sono andati a finire all'altro, e questo signore è andato un po' oltre le righe. Sì. E quindi che cosa avete fatto? Avete sporto denuncia all'autorità giudiziaria, certo, ha tutto un limite. Sì. E abbiamo denunciato per ingiuria e diffamazione a questo signore. La procura ci ha invitato, insomma, per risparmiare risorse, tempo, anziché istruire tutto un processo, che è un procedimento che avrebbe avuto dei costi e dei tempi lunghissimi, a trovare insomma una definizione così. Sì. Amichevole. Quindi, diciamo amichevole, quindi paga e in più deve scrivere su Facebook che si scusa con voi. Esatto, noi ci è venuto in mente questo, abbiamo fatto questa richiesta, le scuse formali ovviamente da ripubblicare sullo stesso sito dove erano state scritte le diffamazioni, e questo diciamo pena da versare alla casa d'accoglienza. Noi abbiamo una casa d'accoglienza esatto, che ospita i parenti di una struttura olusca, i parenti, esatto, i malati in cura all'istituto per la ricerca e la cura del cancro appunto di Candiolo. Bene, questa è la pena, leoni da tastiera, attenti, dovreste poter tornare sui vostri passi. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.